Sorso Info, salute e società. Punto radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso, in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. La rubrica So Info, che ogni settimana vi accompagna con informazioni e consigli pratici sui temi della salute attraverso uno sguardo plurale, il punto di vista della donna, delle bambine e dei bambini, prosegue con il tema del parto, il momento più importante di ogni vita. Il parto è una circostanza sognata e attesa, ma anche un po' temuta dai futuri genitori. Tuttavia, avere le informazioni necessarie e sapere come si svolgerà contribuisce alla nostra tranquillità. La prima rassicurazione riguarda l'accesso all'unità di ginecologia e ostetricia. Per le donne in travaglio, sia all'ospedale di Treviso che all'ospedale di Oderzo, è diretto, senza dover passare tramite il pronto soccorso. In reparto si incontra il personale della sala parto, pronto ad accogliere e valutare le condizioni della futura mamma e ad accompagnarla in sala monitoraggio o in sala parto. Per valutare il benessere del bambino e della partoriente vengono realizzati il monitoraggio, la visita ostetrica e la misurazione della pressione arteriosa. In questa fase, chi ha scelto di donare il sangue cordonale deve ricordare di consegnare la sacca di raccolta ricevuta al centro trasfusionale. In sala travaglio è possibile rimanere insieme al compagno o una persona di fiducia, oltre che con l'ostetrica, che sarà accanto durante il travaglio e al momento del parto. Se il decorso è fisiologico e la registrazione del battito del bimbo è regolare, la futura mamma può assumere la posizione preferita sia durante il travaglio che al parto e il bimbo sarà monitorato con telemetria senza fili per consentire alla donna di muoversi in libertà. In caso di patologie del travaglio, del parto e della sutura, viene allertato il personale medico responsabile. Per vivere più serenamente il travaglio e il parto è possibile usufruire del Calinox o dell'analgesia epidurale. Il Calinox è una miscela di gas che viene somministrata per via inalatoria durante la contrazione, agendo sul sistema nervoso centrale e sulla percezione del dolore. La prescrizione viene effettuata dal medico di guardia e la sua somministrazione dal personale ostetrico. L'analgesia epidurale è una tecnica che può essere eseguita solo da un medico anestesista su indicazione medica e condizioni cliniche ed organizzative permettendo. All'ospedale di Treviso parte ufficialmente il 1 novembre. Il professor Antonio Farnia, primario del reparto anestesia e rianimazione dell'ospedale di Treviso, spiega perché è stata fatta questa scelta. È stato un grande sforzo di tipo organizzativo e una richiesta di un grande sforzo dei miei collaboratori, perché si tratta di un percorso difficile per scarsità delle risorse disponibili, soprattutto per l'elevata complessità e numerosità delle urgenze che avvengono all'interno dell'ospedale, per cui alcune delle risorse dovranno essere deviate verso questa cosa che è la parto analgesia, che era una cosa dovuta, un progresso di tipo epocale, però insomma una cosa moderna che era assolutamente necessario iniziare. Abbiamo già iniziato a metà ottobre il percorso che prevede gli incontri con le ostetriche, quello collegiale, ginecologi e neonatologi, e quindi abbiamo già cominciato a descrivere il percorso alle donne e ora abbiamo già iniziato qualche caso, ma inizieremo da novembre a offrire questa risorsa a tutte le persone che lo richiedono. Subito dopo il parto, per favorire il contatto, il legame con la bambina o il bambino e l'allattamento al seno durante la degenza, il piccolo può rimanere con la madre tutto il tempo fino alla dimissione, eccetto nell'orario di visita al pubblico quando per la sua tranquillità sarà portato al nido. La dimissione avviene dopo la valutazione delle condizioni della mamma da parte del medico e di quelle del bimbo da parte del pediatra. Può avvenire in terza giornata sia per il parto spontaneo che in caso di taglio cesareo. A domicilio, infine, per le donne appartenenti all'USL 9 è previsto il contatto telefonico e la visita dell'ostetrica del territorio, che sarà un importante punto di riferimento nelle fasi evolutive del puerperio e dell'allattamento. Informazioni utili sul sito www.uls.tv.it. Su Info, salute e società.